Dicammo la consorte, vedi ver noi s'avanza. Thank you. grida, qual tumulto. Subito la guerra e seguaci. Ja, che vai con quelle facci. Oh, Sempre e sempre mai ribelle e alla voce d'un dio. L'intrepidezza tua, la tua costanza rendo l'ardir primiero a sera. E credi che tu dirà? Lo spero. Donne nell'arca ritornate, voi mi seguite, o figli, onde che ci per tutto nostra voce nunzia di quel flagello, sterminator dell'uomo, che a Dio rubello. Thank you. sos mezze fol. Parlate, che voi tutti in quel loco prevenne, che dal confirme il braccio mi un trattenne. Impodica respira, vive ancora la rea Sperdora, vive ancora la rea Sperdora. Di morta sai peggior prima vecco è la stessa. E la inoltre prezzati al tuo sposo. Ah, che ne vieni? Vantarmi vuoi che l'arca è il esanfor per tua cagione? Me noto che vorresti quell'ira in te veder placata, che conceda protrarre un veglio inerme insiem coi figli. Figli? Pur ne scevri d'affanni, da te stessa t'accusi e ti condanni. E palese di sela un tal desio, e più palese ancor l'immenso amore che nutre per l'odiata famiglia. Ma se al nuovo sorgere della luce onniveggente da sennare non parte pena maggiore di quella ch'io volgia nella mente si avrà, e se tu traggi le pie per quella gente, perdi te stessa il figlio tuo. Mio figlio! Ciò ti basti. Vado, consiglio, sorte m'arridi. Mai come rivelarla a noi? Tu stessa il puoi. Alcuno, ma di che parta, che vuole figli suoi, dica tu alla vendetta. E se lo sposo di me chiede, ti fido, deluderlo saprò, e corri t'affretta. Arto si cerchi, a Cadmo i tuffo sveli, e lo guidi laddove sicurella ne va contra il divieto. Ada, spera, che ride fausta sorte, forse la tua rivale in braccio morte. Thank you. totale sterminio, larva e fantasma, cenno essi finge, crede la stolta, la perduta gente. Sera, amrieli! Ma portatrice di sinistro evento! E qual? Di svela! Oh, e cadmo, più feroce di rato! Contro te, tua famiglia, nuove bene prefigge se più resti! Folle! Imposi che a te chi non tornassi! E tu? Retta e furtiva il piede! Ad alla vita intanto tu del garbo soffri. Duolmi che in grembo d'ogni colpa il mora. Ultima al mondo fia la nuova aurora. E l'ultima volta ch'a te pur'anco Iddio fa bella e per man di Noè t'offre modo a salvezza. Io il pregherò che almen con mia famiglia dalla strage comune salvi te sola. Ma tutti spenti. E dubbia, incerta ancor ne sei. Tu pur non crederesti a detti miei. Quel che del ciel sui cardini vada tranquillo germi uman ribelle, e sorto ignoto e torbido, tuonando dalle stelle, Gando! Oh, Gando! Sacro santi sogni accendi che al mio labbro porge il fine, fine, il profeta I'm Thank you. certezza fatal. Ti mia vergogna. Io testimon dell'esecrando eccesso, perché non la trafissi e spenta in quell'istante, al veglio io non la resi all'empio amante. Questo nome ogni labbro bandisca e per sempre più sposa Cadmonno la Rudi. Come squarciasti l'orrendo velo che asconde a sue colpe e in guider don tu merti l'amor mio. L'amor tuo tanto non spero, infin che sei la vita. Vita di cui lo stame morte reciderà, atroce, infame. Allor che la vedrai, tuo malgrado al suo pianto cederai. E tanto vil mi estimi. Ebben, del sappi, lei qui presso e chiede favellarti se il concedi. No, non mai. E se porgerle ascolto ad el chiega per lei. Tu il vuoi, sinaltri. Maggior tormento fia il rivedermi e per la volta estrema di vita e l'abbandoni ogni idea di speranza. Vieni, mia fida amica, a lui t'avanza. Oh, la tua memoria. Male tutt'ancora non sai. Non c'io soffri, più non mi sai concerne. No, sposo, sposo, il cor gli affetti miei in premio avrà colei, in premio avrà ti scoppi. Vada, sarà che pensi che non sì. Ah! Sopore parea che dopo il flagello tremendo un di voi figli avessi un maledetto e tutta la sua stirpe. Ma no, che parli? Non mai. No, no, non è paventate. Tutti al mio sen venite, m'abbracciate. Chi s'appressa? Se la trascinata così, pietoso Dio, forza tu ispira lei. Perverso in nome, quando non rimarrà che cielo ed onda. E chi puote cangiar l'invariabile ordin di natura? Chi ha un sol accenno d'impero vide brillar la luce, rotar le stelle e separarsi mai. I fiumi uscir dai fonti, le valli aprirsi, e sollevarsi. Del più brutale furor delira. Il velo, popoli, a voi predico. Non più si compia la prescritta pena, e sera e i figli tutti sian tratti all'arca e al par di lui distrutti. Il pianto temi che t'abbandoni Dio, in Dio t'affida. Per l'innocenza mia, segno io pianto. Il ciel di Sennar che accoglie quanti e il mondo tutti i popoli appresentano, e che ci d'un sol grido, e sia pur quello che l'uom vivrà, mai sempre calpestando ogni legge, ogni freno, e spargerà d'oblio col suo falso profeta, il falso Dio. Thank you. ciegos. Alla spera. Dio tremendo. Nella donna. Dio sente. Anzisto sei infatti. Io idolo. Perdona la bella obra di tuo mano, non mi spiace. Oh, popoli gioite, il menzogner Noè fia pol ben breve. Vada che il tradimento seppe svelar. O seccami! O contento! A testa! A vencea! A te ritorna! Se come salva che viene. Pietade, pietà. Donna spergiura infida, chi dai lacci ti sciolse e a me ti guida. Cacciavi, ed io vittima innocente, più da te m'allontanava, più per te l'amore ardea, di noi chiamavi il Dio, e quel Dio non rispondea. Spargendo il figlio thank you. ad mon nuova ascolterà. Prenderai tu il figlio Luperto, maledico per sita. Thank you. Thank you.